Oramai non la smettono più. Abbiamo superato il punto di non ritorno e nuove aziende che offrono strumenti di riconoscimento facciale facili da usare e direttamente accessibili online stanno fioccando ovunque. La più recente, PMICE, è un'azienda polacca che, con la scusa di permetterti di verificare se la tua immagine è stata usata indebitamente online, quindi tipo se qualcuno si sta spacciando per te sui social, offre in realtà a chiunque uno strumento per abusare della tecnologia di riconoscimento facciale. Direttamente da un sito web. A inizio luglio, il gruppo di giornalisti investigativi tedeschi di Netzpolitik ha pubblicato un'indagine su PMICE. Questa azienda offre una sorta di motore di ricerca per i volti che contiene circa 900 milioni di facce. L'interfaccia del sito web è semplicissima, dobbiamo solo caricare una foto e fare clic su un box in cui dichiariamo che quell'immagine ritrae il nostro volto. Poi ci pensa il motore di ricerca sviluppato dall'azienda. Ovviamente non c'è modo di verificare che si stia dicendo la verità e quindi chiunque può caricare l'immagine che vuole, non necessariamente quella del proprio volto. Dall'inchiesta di Netzpolitik emerge che questo software è potenzialmente legale e che basta persino uno snapshot per identificare uno sconosciuto. Il sito non offre direttamente il nome abbinato al volto, quindi non rileva subito l'identità del volto caricato, ma ovviamente offre tutte quante le immagini che combaciano con quella caricata e sotto si trova un'informazione del sito web da cui è stata tratta quell'immagine, quindi non è difficilissimo poi risalire all'identità della persona che si sta cercando. Di questa azienda aveva già parlato la BBC a giugno, sottolineando come potesse essere abusata da stalker per individuare l'identità delle vittime, ma ci sono comunque altri scenari ugualmente preoccupanti da tenere in considerazione. Questa tecnologia potrebbe ad esempio rivelare l'orientamento sessuale di quelle persone che vogliono lasciare la propria vita privata separata da quella professionale. Immaginiamo un datore di lavoro che vuole sapere se i propri dipendenti hanno partecipato a una manifestazione del Gay Pride. Oppure immaginiamo il riconoscimento facciale che può diventare persino uno strumento per attaccare e discriminare ulteriormente tutte le sex workers che preferiscono non rivelare la propria identità. Quindi queste si trovano a rischiare di vedere il proprio nome associato al lavoro che svolgono. Inoltre, strumenti del genere, se lasciati liberamente a disposizione di chiunque, potrebbero peggiorare ulteriormente i danni della condivisione non consensuale di materiale intimo. Immaginiamo di qualcuno che effettua una ricerca sul sito di PMICE di una foto che ha ricevuto in una di quelle chat odiose e schifose di cui si è parlato nei mesi scorsi presenti su Telegram, e grazie a questa ricerca su questo sito potrebbe scoprire l'identità della vittima ritratta, generando così ulteriori attacchi e pericoli per la vittima stessa. PMICE inoltre offre la possibilità di acquistare una licenza per effettuare ricerche di massa, quindi grazie a questo meccanismo che sostanzialmente guadagna. Ad esempio, se qualcuno volesse cercare 100 milioni di foto tutte insieme, quindi caricandole tutte insieme senza fare una ricerca per singola foto, il prezzo per la singola ricerca sarebbe inferiore a un centesimo. Stanno svendendo letteralmente i nostri volti. Solo a gennaio scorso, quindi inizio di quest'anno, 2020, era esploso il caso di Clearview AI, questa azienda statunitense che aveva raccolto più di 3 miliardi di immagini di volti di persone da internet, facendoli illegalmente ovviamente. E in quelle circostanze io mi ero fatto mandare le immagini che avevano su di me. E ammetto che trovarsi davanti una foto del proprio volto, di cui non si ha conoscenza, quindi una foto caricata da un amico online e che tu non sapevi fosse online, sinceramente mi aveva sconvolto. E ora, con l'aggiunta di questa seconda azienda, c'è un'ulteriore riflessione da fare, ovvero sapere che il costo per produrre questi algoritmi di riconoscimento facciale sta diventando talmente ridicolo, talmente ridotto, che nel giro di 6 mesi già abbiamo 2 aziende che sono finite sotto i riflettori per le loro attività illegali di raccolta di immagini e dati biometrici dei nostri volti, dovrebbe spingerci a chiedere ulteriormente la messa al bando di questa tecnologia.